Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 432, nella quale parleremo di nutrie sommerse e chiocciole salvate, domatori pentiti. Speriamo di avervi incuriositi. To my home, which everybody owns. Dopo averle importate, allevate e uccise per la loro pelliccia, dopo aver parlato di loro come di animali brutti, sporchi e cattivi per giustificare uno sterminio effettuato con brutalità inaudita, ecco arrivato l'ennesimo supplizio per le nutrie che sembrano destinate a diventare adesso oggetto di allevamento a scopo alimentare. Sì, perché evidentemente l'industria del cibo toglie i peccati dal mondo e purifica anche ciò che prima era immondo e impuro. Michel Marchi, sindaco di Gerre de Caprioli in provincia di Cremona e presidente dei piccoli comuni dell'Anci, Lombardia, qualche giorno fa aveva lanciato la proposta, che sembrava solo una provocazione, di mangiare le nutrie in eccesso. Che non fosse solo una provocazione ce ne siamo resi conto quando Marchi, per dare il buon esempio, ha riunito fotografi e telecamere e si è fatto fotografare mentre si accanisce su una pietanza a base di nutria. Il piatto è stato preparato lasciando la carne di nutria a marinare per una notte con limone, chiodi di garofano, rosmarino, pepe e salvia. Poi è stata fatta stufare per un'ora e mezza nella birra. Pensate a quanti ingredienti di origine vegetale c'è stato bisogno di ricorrere per camuffare il vero sapore e rendere commestibile questa povera bestia. Spendiamo milioni di euro per riparare i danni che questi animali fanno ad argini e difese idrauliche. In mezzo mondo la nutria si mangia, ha dichiarato Marchi, e anche in altre province e regioni fluviali già si ragiona in questi termini. Dico semplicemente, legalizzatela. Chi non vorrà provare non credo che subirà torture corporali. Il vegetariano rimarrà tale, il vegano idem, lo scettico pure, ma escludere a prescindere questa strada è limitante e, a mio avviso, nel lungo periodo dannoso. Marchi evidenzia poi che, a differenza dei topi, la carne di questo roditore non porta leptospirosi, come evidenziano alcuni verbali della ASL. È totalmente erbivora e alle alte temperature i batteri se ne vanno. Marchi già si fa promotore di un'iniziativa a tema. Garantisco l'organizzazione di una sagra paesana gastronomica a tema. Isabella è una donna che vive ad Avenza, in provincia di Massa Carrara, dove è approdata per motivi di lavoro. Ha una casa piccola e accogliente con una vista mozzafiato sulle Alpi Apuane. Tra il suo balcone e il magnifico panorama, però, c'è di mezzo il triste moncone di quello che doveva essere un poderoso albero, che regalava alla casa la sua generosa ombra, rappresentando un rifugio anche per mille animali. Isabella dice che tagliarlo è stato un crimine e che lei avrebbe volentieri rinunciato al panorama purché non lo tagliassero. Ma la cattiveria e la stupidità hanno vinto. L'albero è stato ucciso perché gli aghi di pino e la resina davano fastidio. Ma da Isabella non siamo andati per parlare di alberi. L'abbiamo cercata quando abbiamo letto la storia della sua amicizia e del suo incontro con Ipsum, una chiocciola, un animale piccolo, silenzioso e molto poco considerato. Sentiamo il servizio. Certo che si abbai però, eh. Ci siamo incontrate il 10 giugno dello scorso anno, quindi del 2017. Stavo attraversando una strada abbastanza ampia e trafficata e ho notato questa chiocciola sull'asfalto. Era una giornata caldissima, quindi l'asfalto era rovente, il sole battente. Ho deciso di metterla sul ciglio della strada o quantomeno sull'erba. E nel raccoglierla mi sono accorta che la sua casetta era completamente distrutta. È un periodo in cui le chiocciole vanno in cosiddetta estivazione, un letargo vero e proprio estivo. Fanno il letargo invernale, vanno in ibernazione e poi c'è il letargo estivo. Chiudono l'opercolo e all'interno della loro casetta si difendono da predatori e dalle condizioni atmosferiche non favorevoli a loro. Il loro habitat ideale deve essere un clima umido, quindi la loro maggiore attività si svolge durante la primavera e l'autunno. L'ho portata a casa con me, ho osservato le lesioni che aveva riportato sulla sua conchiglia e per tamponare così il danno nell'immediato ho applicato dello scotch carta e poi ho lasciato che lei riposasse in un angolino di un terrario che ho costruito così recependo informazioni su internet su come fare. Quella è stata la prima volta che mi sono messa veramente a studiarle. Dopo circa una quindicina di giorni si è svegliata e ha cominciato ad esplorare l'ambiente e a mangiare. Le ho messo a disposizione tutti i tipi di insalata possibili e immaginabili, cetriolo, era estate quindi il cocomero, la mela e soprattutto l'osso di seppia, che è ricco di calcio e quindi l'ha aiutata nel ricostruire la propria casa. Ci è voluto un po' di tempo, alla fine è riuscita a ristrutturare la conchiglia per intero. Mi è sembrato che stesse bene e direi che sta in splendida forma. E dicevi che la loro fisiologia è uguale alla nostra, molto simile. Sì, sono invertebrati polmonati, quindi all'interno della casetta troviamo i polmoni, i reni, il fegato, il cuore, hanno il sistema circolatorio più o meno come il nostro. Hanno tutti gli organi che abbiamo noi. Sono molto timide, quindi non solo al dolore, ogni cambio di temperatura, comunque ogni cambio ambientale intorno a loro le fa ritrarre. Quest'inverno ho trovato un'altra chiocciola, ferita anche lei, le lesioni non erano gravi come quelle di Ipsum, però l'ho raccolta, si chiama Idem, e una decina di giorni fa si sono accoppiate. Me ne sono accorta svegliandomi una notte, sono passata davanti al terrario e ho assistito a questo magico incontro, una cosa incantevole. Quanto è durato questo accoppiamento? Dura circa 10 ore. Io mi sono accorta che si stavano accoppiando verso le 3:30 del mattino e a mezzogiorno successivo erano ancora vicine. sono creature ermafrodite insufficienti, vale a dire che sono dotate di entrambi gli organi di riproduzione, tanto quello maschile quanto femminile, ma non possono autofecondarsi, quindi hanno comunque bisogno di un partner e nel momento dell'accoppiamento fecondano e a loro volta vengono fecondate. Uno scambio veramente alla pari. Eh sì, direi proprio di sì, in questo caso sì. Qui è la nursery, hanno già fatto le uova. Qua sotto puoi notare un piccolo grappolo di, no, fantastico, di uova. È vero, si vedono benissimo, bianche nella terra scura. Esatto. Ora mi aspetto che tra una settimana, perché è già successo una settimana fa, nasceranno i piccoli. Quando nasceranno i piccoli li porterò nella tenuta di Marinella e avranno la loro vita in libertà. La loro vita in libertà, sì. E ipsum e idem resteranno con me. A parte il legame affettivo che si è creato, ho paura che comunque questa casetta ristrutturata in questo modo non sia proprio la tenuta stagna. Quindi comunque il terrario è ampio, hanno cibo, hanno spazio e soprattutto, anche se la gente potrà non crederci, interagiscono con l'uomo. Io le tengo con me quando mangio, apro il terrario, loro fanno la loro passeggiata, le accarezzo, le gratto sotto la cosiddetta pancia, che poi sarebbe il piede, e loro accettano questo tipo di attenzioni. Quindi anche questa è stata una bella sorpresa. Garantisco che è così e bisognerebbe imparare un po' tutti a porre di nuovo attenzione alle piccole cose che ci circondano. Ci si accanisce ferocemente contro queste creature con uso di lumachicidi, veleni di varia natura. Basterebbe veramente poco per imparare a convivere e a ristabilire degli equilibri che in fondo è stato l'uomo a far saltare. Mi sono avvicinata al mondo animalista, vegetariano e vegano una decina di anni fa. Ho cominciato ad informarmi, a vedere video, a piangere e ad avere incubi notturni. Ho partecipato a manifestazioni e flash mob e niente, così. La mia vita è cambiata, ho cominciato a porre attenzione negli acquisti, cercando di comprare prodotti cruelty free. Cerco di fare nel mio piccolo del mio meglio e cercando anche di informare le persone a me vicine. Le chiocciole, ma è chiocciola free la ricetta di questa settimana a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni, che da anni conduce la rubrica di cucina Il Pasto Gentile, proponendo l'adagio Vivi e lascia vivere. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Spesso si parla dell'atroce metodo di cottura delle aragoste gettate vive in acqua bollente, ma raramente si considera che un destino ugualmente crudele tocca anche ad altri animali. Questo purtroppo è anche il caso delle chiocciole o lumache. Probabilmente il fatto che non siano in grado di emettere suoni fa sembrare il tutto un'operazione indolore, ma dubito che sia così. E a questi curiosi animali dedico una ricetta della tradizione ferrarese. Un pasticcio di pasta condita con un ragù bianco e funghi, avvolto da una crosta di pasta frolla. Sì, avete capito bene, una pasta frolla dolce aromatizzata al limone. Solitamente si utilizzano i maccheroni, ma in questa versione utilizzeremo la pasta nel formato chiocciole. Pasticcio di chiocciole alla ferrarese. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di pasta, appunto formato chiocciole, per la pasta frolla 150 g di farina di frumento, 50 g di olio di oliva, 25 g di farina di riso, 25 g di fecola di patate, 40 g di zucchero di canna, 50 ml di acqua, scorza di limone grattugiata, 5 g di crema or tartaro, un pizzico di sale e un pizzico di curcuma in polvere. Per il ragù, una cipolla bianca, una carota, una costola di sedano, 50 g di granulare di soia, 50 g di porcini freschi oppure 20 g di funghi secchi, olio extravergine d'oliva, un bicchiere di vino bianco, sale e pepe. Per la besciamella, 500 ml di latte vegetale, 30 ml di olio extravergine, 30 g di farina di frumento, noce moscata e sale. Io ti amo veramente, con tutto il cuore, ma tu mi lasci sempre solo. Vieni, è pronto da mangiare. Vengo. Preparate la pasta frolla. In un recipiente unite tutti gli ingredienti ad eccezione della farina. Impastate il tutto, quindi aggiungete la farina di frumento setacciata. Lavorate rapidamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Formate un panetto rettangolare e spolverate con poca farina. Coprite la pasta con la pellicola e lasciate riposare in frigorifero almeno per mezz'ora. Nel frattempo preparate il ragù. Fate un fondo con il sedano, la carota e la cipolla. Mettetelo in un tegame assieme ad un mezzo bicchiere di acqua e quando sarà evaporata unite 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare per 5 minuti. Quindi unite il granulare di soia e di funghi tagliati a pezzetti. Bagnate col vino bianco, fate evaporare, aggiustate di sale e pepe e portate a cottura con acqua o brodo vegetale. Intanto preparate la besciamella. Fate sciogliere la farina nell'olio e lasciate rosolare per un paio di minuti. Aggiungete il latte vegetale caldo mescolando con una frusta. Aggiungete la noce moscata e aggiustate di sale. Cuocete la pasta a 2/3 della cottura indicata, scolate e condite con ragù bianco e la besciamella. Quindi lasciate intiepidire. Nel frattempo tirate la pasta frolla ricavando 2 dischi dello spessore di 1 cm. Foderate uno stampo a cerniera e farcite con la pasta condita. Quindi chiudete con il secondo disco di frolla. Fate delle guarnizioni a piacere sulla superficie e spennellate con una miscela di curcuma in polvere e acqua. Fate cuocere in forno per circa 25 minuti a 180 gradi. Lasciate riposare una 15ina di minuti prima di servire. E visto che questa settimana parliamo di chiocciole, rallentiamo il ritmo musicale e ascoltiamo tutti i brani che rallentano il loro ritmo. Ma per onorare le chiocciole ho selezionato per voi, ho selezionato Snails degli Smashing Pumpkins dal loro primo album. We'll be right back. comitato della LAV di Torino denuncia la presenza del circo Martin, che resterà attendato a Susa in provincia di Torino dal 4 al 14 maggio. Il circo Martin era salito alle cronache nel 2014 per avere subito il sequestro di tutti gli animali presenti nel circo per maltrattamento, e il processo è ancora in corso. In passato questo stesso circo aveva esibito il famoso e famigerato numero in cui un cavallo, con in sella una tigre, trasporta un carretto con dentro un orso bruno. Si tratta ovviamente di uno spettacolo completamente innaturale che costringe il cavallo a lavorare accanto ai suoi potenziali carnefici in una situazione di terribile stress. Inutile dire che per convincere un cavallo a fare un numero simile occorre coercirlo in modo violento. Anche le linee guida della commissione scientifica CITES, che sono i criteri per il mantenimento degli animali nei circhi, proibiscono questo tipo di numeri da circo. La LAV sottolinea inoltre che i circhi non rappresentano solo un'inaccettabile ingiustizia a danno di individui innocenti, cioè gli animali, ma anche un insegnamento molto problematico per i bambini umani, in quanto, come spiegato da un documento sottoscritto da oltre 650 psicologi, può indurre al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolando lo sviluppo dell'empatia, che invece è fondamentale come momento di formazione e di crescita. Insomma, divertirsi e ridere di fronte alla pena e al disagio, alla sofferenza di altri esseri viventi non è raccomandabile, né per un adulto né per un bambino. La LAV ha invitato tutti i commercianti di Susa e dintorni al boicottaggio, chiedendo loro di non esporre le locandine del circo Martin. Can't anybody see? Never find our way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel? Restiamo in tema di circo, ma stavolta parliamo di un libro scritto da un ex domatore circense pentito, che oggi denuncia la sofferenza degli animali nei circhi. André-Joseph Bouglione, 44 anni, è un ex domatore, erede della più celebre dinastia di circensi di Francia. Conosce molto profondamente questo ambiente e le sofferenze che subiscono gli animali, domati spesso a scudisciate, sottomessi a logiche assolutamente contro natura e costretti a vivere in gabbie esigue. Queste frasi sono un virgolettato, cioè sono frasi pronunciate da André-Joseph Bouglione. Dopo anni di riflessione, l'ex circense ha deciso di vuotare il sacco. Lo ha fatto scrivendo un libro intitolato Contre l'exploitation animale, contro lo sfruttamento animale, uscito in Francia per far luce su una realtà che non ha più ragione di esistere. Il circo è stato creato al tempo dei Romani, che mettevano nell'arena animali feroci contro gli uomini. È sopravvissuto nei secoli perché alla maggior parte dell'umanità non era consentito conoscere un animale selvaggio in natura. Ma ora le cose sono cambiate. 40 paesi nel mondo hanno abolito gli animali dagli spettacoli. Tigri, leoni, elefanti, persino giraffe sono ancora presenti sulle piste perché non si trovano soluzioni per piazzarli. Non essendo più graditi, vengono ancora più maltrattati, dice l'ex domatore, che racconta di un circo in Francia, di cui non vuole fare il nome per paura di pesanti ritorsioni, colpevole di episodi di rara crudeltà. Gli animali in quel circo soffrono talmente tanto che la loro speranza di vita si misura in mesi invece che in anni. Hanno una giraffa che trasportano in un camion inadatto e questo la costringe a tenere la testa fuori dal tetto. Una volta ha anche sbattuto contro un ponte troppo basso, provocandosi ferite molto gravi. Un'altra volta il pavimento del camion è sprofondato, ferendola alle zampe. Più i circhi sono piccoli e più gli animali soffrono, con domatori incompetenti che usano la violenza invece del talento, provocando tali e tanti disagi da causarne la morte. dice André Joseph Buglione. Soltanto in Francia attualmente esistono 3.000 grossi felini nei circhi e una quindicina di elefanti. E la cosa più preoccupante è che saranno sempre di più. Per esempio, per le feste di Natale, molti animali di circhi italiani, fra cui 12 elefanti, si spostano in Francia, utilizzati nei vari Christmas party per far piacere ai bambini. Per l'ex domatore, che sta montando adesso un circo totalmente ecologico, la preoccupazione è grande. Ci vorrebbero grossi investimenti per creare santuari capaci di accogliere animali che non possono tornare in natura. Non hanno gli anticorpi, non sanno procurarsi cibo, sarebbero vulnerabili e disperati. Tutti gli esperimenti di rimessa in libertà sono falliti, dice André Joseph Buglione, precisando che tutti i grandi felini dei circhi andrebbero sterilizzati per finirla, una volta per tutte, con il commercio dei cuccioli, che finiscono in case private o, peggio, in qualche cantina della banlieue parigina, dove bulli della peggiore specie li rinchiudono a vita. Troppo ingombranti e pericolosi, leoni e tigri ammaestrate, animali sensibili e intelligenti, vittime della loro bellezza, rischiano di fare una brutta fine in tutto il mondo se qualcuno non interviene seriamente. Per gli elefanti, anche se non c'è posto per tutti, esiste nel sud-ovest della Francia un santuario, Elephant Haven European Elephant Sanctuary, WHEES, che sosteniamo e preghiamo tutti di sostenere. È un parco dove i più fortunati possono essere accolti per finire in pace la loro vita. Chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 433 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.